ribelli della montagna vivono di stenti e di patimenti, ma quella fede che li accompagna sarà la legge dell'avvenire. Sono i ribelli della montagna, vivono di stenti e di patimenti, ma quella fede che li accompagna sarà la legge dell'avvenire. Dalle belle città date al nemico, fuggimo via su per le scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bomba e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge della vita. Disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiani dalla folta ardente schiera.